Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. 15.02, io sono Ilona. Io sono Giuliona. E questo è Bosco, che è assolutamente ritornato in diretta. Sì, sì, non state sognando. Siamo qui oggi, tra l'altro è un po' una sfida, ma iniziata a colpire giusto, perché la prima notizia che abbiamo letto questa mattina è stata che un hacker questa notte ha cancellato dalla piattaforma di ascolto musicale YouTube il video di Despacito. Quindi questa notizia non poteva renderci più felici. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo anche di trovare, diciamo, delle cancellazioni anche in altri artisti, tipo Federico, ma sì, giustamente. Esatto, ma così, tanto per dire. Comunque, a parte questo, siamo tornate con una puntata seriosa, molto seriosa in realtà. Sì. Perché la nostra cara amica Giuliona un giorno mi chiama e mi dice: Ilona, guarda, io oggi spleen, e quindi siccome spleen ambient. Questo cosa vuol dire? Che oggi parliamo di musica? Musica d'ambiente, musica ambient, dagli esordi fino ai giorni nostri, ed è un po' una sfida per noi, e lo capirete strada facendo. Intanto vi possiamo solo dire che la musica ambient è definita da uno dei suoi più grandi artisti come una musica che può anche essere ignorata. Quindi come si fa a passare per radio una musica che può essere ignorata? Lo scoprirete oggi con noi. Esatto. Ma io direi di iniziare già subito, assolutamente sì, con un pezzo che è praticamente l'inizio, il vero inizio della musica ambient. Parliamo di uno dei compositori più celebri, Erik Satie, con quella che lui chiamava la musica d'arredamento, sì, ovvero Musique d'Amblement. Infatti è lui l'iniziatore, ve ne parleremo subito dopo questo pezzo, godetevelo. Intanto, se volete raccontarvi della vostra musica ambient o anche del vostro spleen, potete scriverci per SMS o WhatsApp al 333 180 9494. Esatto, noi vi aspettiamo qui, Erik Satie con Tenteur de Cabinet Préfectoral. Bravissima. L'ho detto giusto? Giustissimo. Bene. Thank you. Stiamo ancora ascoltando Erik Satie con la sua musica d'arredamento e volevamo appunto introdurre questa puntata sull'ambient con questo pianista e compositore celebre che ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e che era una personalità piuttosto stravagante, ma in realtà vogliamo introdurlo con le stesse parole che lui spese per descrivere la sua musica. Satie infatti disse: seduto ad un caffè ha un suo compagno e amico che si chiamava Fernand Léguerre. Sai, bisognerebbe creare della musica d'arredamento, cioè una musica che facesse parte dei rumori dell'ambiente in cui viene diffusa, che ne tenesse conto, insomma. Dovrebbe essere melodiosa, in modo da coprire il suono metallico dei coltelli e delle forchette, senza però cancellarlo completamente, senza imporsi troppo. Riempirebbe i silenzi, a volte imbarazzanti dei commensali, e risparmierebbe il solito scambio di banalità. Inoltre, neutralizzerebbe i rumori della strada che penetrano indiscretamente dall'esterno. Quindi, quello che voleva fare Satie era creare una musica d'accompagnamento che appunto accompagnasse e tenesse per mano dei momenti della giornata, in un certo qual modo un paesaggio musicale. Ma nel fuori onda appunto stavamo parlando io e Ilaria delle frequentazioni di Satie un po' particolari. Esatto, perché praticamente Satie nel suo periodo, nella sua vita, entra a contatto con musicisti e poeti veramente veramente interessanti. Uno in particolare è Mallarmé. Ovviamente la prosa di Mallarmé, la poesia di Mallarmé si vanno ad inserire, diciamo, a livello poetico nello stesso movimento in cui si inserisce Satie, perché il modo di scrivere di Mallarmé è tipicamente ermetico e evocativo, ed è un po' quello che fa la musica ambient, cioè nel senso arrivare ad evocare determinate situazioni. Non solo, nella sua vita entrò in contatto con Debussy. Ovviamente Debussy, maestro del silenzio, non sembra, ma in realtà Debussy fa un utilizzo magistrale del silenzio all'interno delle sue opere, tant'è che la musica quasi emerge soffocata dal silenzio. Se avete occasione, andate ascoltatevi Debussy, se non avete, cioè uscite ovviamente dal Clair de Lune che conoscono tutti, esatto, e andate ad ascoltare qualcosa di Debussy, perché veramente merita. Il silenzio, che è cosa fondamentale sia per quanto riguarda ovviamente tutta la crisi della tonalità che c'è stata appunto a cavallo tra 800 e 900, che appunto per la musica d'ambiente, perché la musica d'ambiente va a inserirsi come tassello mancante, diciamo, alla vita di tutti i giorni, ed è molto importante. Per esempio, mi viene in mente, brevissimo aneddoto, John Cage, che ovviamente potremmo definirlo l'esteta principale ovviamente di questo movimento che va a destrutturare completamente la musica e a dare importanza al rumore, ok? Famosissima ovviamente la sua composizione 4 minuti e 33 secondi, in cui il pianista sta sul palco praticamente per 4 minuti e 36 secondi in silenzio, apre semplicemente, diciamo, il coperchio del pianoforte e poi lo chiude. Caso volle che durante la prima esecuzione praticamente ci fu una pioggia torrenziale, quindi di fatto gli ascoltatori ascoltarono il temporale fuori dal concerto. È meraviglioso, infatti. Sì. Forse è proprio questo. In realtà tu hai sintetizzato perfettamente quello che abbiamo voluto fare oggi con questa puntata, che è davvero una sfida, come abbiamo detto in apertura. Scusate la mia voce, ma sono piuttosto raffreddata. Ma ora, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tu eri fuori dal concerto. Io ero fuori, esatto. Eri fuori a prendere la pioggia. Si prendeva la barcata di pioggia e poi finiamo così, praticamente. Grazie, grazie, grazie mille. Comunque, vi faccio una domanda e rispondeteci al 333-180-9494. Che può entrare Erik Satie, la musica classica, e quella corrente che viene chiamata minimalismo, con invece la musica techno? In realtà c'entra, e come se c'entra. Infatti abbiamo due tendenze tipiche della nostra contemporaneità musicale, da quel che a me, insomma, pare da numerosi ascolti nella mia nulla facenza quotidiana. La prima è un costante minimalismo, una destrutturazione costante, dagli anni 70 fino adesso sostanzialmente. E poi quella che è, diciamo, il seme, il cuore della pop culture odierna, cioè la musica da rave, la musica techno. Ebbene, non so se lo sapete, ma la musica techno nasce esattamente proprio dalla musica ambient e soprattutto dai primordi dell'ambient. Esatto. Per dimostrarvelo, noi vogliamo assolutamente farvi ascoltare un pezzo bellissimo di Aphex Twin, che appunto si intitola And E2, quindi E2, ma ancora prima, se siete curiosi di capire quali sono i legami tra la musica ambient e il techno moderno, vi consiglio di leggere un saggio che trovate in Creative Commons, quindi assolutamente gratuito, che si intitola Minimalismo e Rave Music attraverso Adorno, un filosofo di estetica, ripetizione ed eterno ritorno dell'identico della musica contemporanea. È di Alessandro Alfieri. Scrivete semplicemente sulla barra Google musica techno e ambient, vi verrà fuori. Sono 36 pagine, vi aliteranno sicuramente un pomeriggio, una interessantissima lettura. Intanto però godiamoci Aphex Twin e insomma fatevi trasportare nel ritmo del rave. Thank you. Continuiamo ad ascoltare Aphex Twin e ovviamente Richard Davis James, questo musicista britannico che diciamo accoglie ovviamente tutto quello, tutta quella che è l'eredità dell'ambient e la trasporta ovviamente all'interno della musica techno e crea di fatto un precedente, perché lui crea, in effetti diventa un riferimento per l'ambient techno. È proprio un modo ovviamente di concepire l'ambient attraverso la techno praticamente, e diciamo tutti i suoi spunti derivano ovviamente dall'ambito della trance music, drum and bass, l'acid house, la noise ovviamente e l'EDM. L'EDM che cos'è? È l'intelligent dance music, ossia brain music, è quella brain dance music, quella musica che diciamo serve per perdere anche un po' i sensi, però non tanto a livello di trance, capito? Proprio sempre un accompagnamento, vorrei dire accompagnamento al ragionamento, ma secondo me è abbastanza riduttivo, capito? Però è assolutamente molto molto interessante. Abbiamo ascoltato And A2, che è estratto da un album che è il sesto album in studio appunto di Aphex Twin, che è Syro. Molto interessanti le tracce perché sono nomi impronunciabili, cioè sembra che abbia messo lettere a caso sostanzialmente, o che abbia, cioè avete presente tipo i file, i cookies del PC quando li andate a leggere, che sono scritti in lettere improbabili con i numeri per catalogarli? Ecco, questi sono i titoli delle tracce appunto di Syro. Syro è del 2014, quindi abbastanza recente, un disco molto interessante e vi consiglio di ascoltarlo. E da Intelligent Dance Music di Aphex Twin fino a quella di John Hopkins. Esatto. Perché esattamente abbiamo deciso di inserire anche John Hopkins all'interno di questa playlist, un po' perché appunto sentiamo molto forte lo spleen della vita, un po' perché è imprescindibile non citarlo. Tra l'altro lui inizia come tasterista, studia il pianoforte da quando era piccino, inizia come tasterista e milita all'interno dell'Imagine Ape. Non so se avete mai visto, sì, ma quando muore la Marissa, o non mi ricordo appunto quando nella scena, ora sto spoilerando tutto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, comunque parte un brano dell'Imagine Ape che ha praticamente sbancato, nel senso che ha proprio chiuso il botteghino, sì. Abbiamo guadagnato tutto quello che dovevamo guadagnare, ecco, lui era il tasterista, si mette poi in proprio e collabora con niente po' di meno che Brian Eno e Coldplay. Di Brian Eno ne parleremo fra poco. Dei Coldplay no. Esatto, grandissima. Dei Coldplay proprio proprio no. Però intanto, dato che sono brani piuttosto lunghi, proprio perché nascono con una vocazione sicuramente diversa da quella dei 3:30 del formato radiofonico, possiamo secondo me benissimo andarci ad ascoltare John Hopkins con Abandoned Window, tratto da Immunity, che è l'ultimo suo progetto solista, che è uscito nel 2013. Nel mentre, se avete qualcosa da scriverci, da dirci, anche solo per salutarci, per dirci mamma che noia questa puntata, scrivete al 333-180-9494 per SMS o per WhatsApp. Godiamoci John Hopkins e poi ritorniamo qui su Radio Città Fujiko 103.100 FM. Thank you. John Hopkins, Abandoned Window da Immunity, scorre sotto di noi e insomma 15:22, questo è Bosco, ritornato in diretta con una puntata un po' da spleen, non danzereccia come al solito, ma perché in realtà abbiamo detto why not, cambiamo un po' registro che tanto... Why not? Esatto, come dice il nostro carissimo amicolo. Allora, abbiamo appena ascoltato John Hopkins, ma in realtà ora ritorniamo un po' agli esordi perché andremo ad ascoltare un artista che si chiama Steve Reich o Steve Reich. Come si pronuncia l'R secondo te? Reich. Steve Reich, che è nato a New York nel 1936, quindi un po' vecchiotto ma dalle idee innovative. Che insomma io conosco nella mia vita, oltre perché è un artista ambient, che però non ascolto particolarmente, sebbene io riconosca la sua bravura, lo conosco perché ha inventato la clapping music. Cioè, non so se la conoscete, ma la clapping music è qualcosa di fantastico, palesemente fantastico, nel senso che sostanzialmente si fa musica attraverso il battito delle mani. Proprio col battito delle mani, e si proprio creano delle melodie, e praticamente rientra perfettamente in quella che è la sua filosofia musicale, proprio perché lui si iscrive all'interno di quel gruppo di artisti che sono detti minimalisti, che proprio tendono a destrutturare il suono. E chi più di Steve Reich l'ha fatto con la clapping music, insomma? Nessuno. Grande, ti volevo. Nessuno. Qui, ti volevo. No, bellissima la clapping music, tra l'altro stavo pensando alla puntata di Ossigeno, sì, Emanuele Agnelli, dove tra l'altro c'era oddio santissimo, quello dei calibro 35, non mi viene il nome. Ah, nemmeno me. Scrivetecelo al 333 180 9494, perché la mia memoria mi sta un po' lasciando. E donateci anche una pasticca di selenio, perché insomma qua la vecchiaia avanza. Esatto. Per capire che cos'è la clapping music potete andare a vedere questa puntata, ovviamente, e si vede proprio che esistono degli spartiti proprio per la clapping music, a seconda se che ci sia tipo annerito un cerchio, un rombo, bisogna fare determinate composizioni con le mani. È molto molto molto interessante, appunto, come ha detto Giuliana, si inserisce perfettamente in questo modo di concepire la musica e anche di concepire il silenzio. Esatto. Proprio perché sono importantissime le pause proprio in questo modo di suonare. Esatto. Il mio professore di batteria, quando ero piccina picciò, me la insegnò. Io ero bravissima, facciamo i tornei tra noi allievi perché appunto volevamo sfidarci, io ero bravissima, poi con l'ansia della prestazione perdevo sempre e quindi non mi beccavo le caramelle. Noi però vi lasciamo a Steve Reich e poi facciamo una piccola pausa pubblicitaria per ritornare proprio qui in questo bosco rigoglioso. Steve Reich Quartet terzo, Fast è il nostro estratto, ve lo lasciamo ascoltare e poi ritorniamo qui. Thank you. stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. E 34, siamo di nuovo qui in onda con Bosco, io sono Ilona e io sono Giuliana e abbiamo appena ascoltato By the River di Brian Eno e ovviamente questa intera puntata è dedicata a lui, nel senso che stiamo parlando di quel personaggio che forse di più ha modificato e influenzato la musica a partire dagli anni 60, fine 60, inizio 70 e ha, diciamo, trasportato la musica ambient all'interno di tutti i generi che poi si sono propagati in quel periodo. E infatti vedremo con i prossimi brani un po', diciamo, le sue influenze e quello che ha creato, ovviamente. Questa però è la produzione precedente, immediatamente precedente a quello che poi diventerà per Brian Eno un vero proprio, diciamo, voto, nel senso che i dischi che arriveranno appunto dopo questo Before and After Science del 1977 saranno interamente dedicati alla musica ambient. Questo album qui, diciamo, è l'ultimo veramente pop, sempre tra virgolette, sì, perché non è il pop come lo intendiamo noi, l'ultimo vero pop e meno sperimentale rispetto ai precedenti, cioè rispetto a quelli che sono successivi, poi che successivi. Verranno. Esatto. Le tracce infatti sono un po' più accessibili, un po' più radiofoniche, diciamo, ovviamente sempre nei termini di quello che si può intendere radiofonico, perché anche nel brano che abbiamo appena sentito comunque vediamo questo, diciamo, questa, vediamo che è in dirittura d'arrivo, che comunque c'è questa propensione verso appunto la musica ambient. Esattamente. Ovviamente Brian Eno è un personaggio molto importante della musica di quel periodo, anche perché ha influenzato con la sua musica, ha lavorato con David Bowie per una trilogia di album, la celeberrima trilogia berlinese. Esatto. Tra l'altro, se avete avuto l'occasione di essere appunto stati al Mambo per David Bowie's, quella mostra meravigliosa con curatela del Victorian Albert Museum, avete sicuramente notato che c'era proprio lì il sintetizzatore di Brian Eno utilizzato insieme a Bowie per la trilogia, esatto, berlinese. Esatto. E per me tipo brividoni sulla schiena. C'era un'intera sezione completamente dedicata alla permanenza di Bowie a Berlino. E gli album sono Low, Heroes e Lodge, nel caso in cui vogliate appunto affrontare l'argomento. E sono tra l'altro tra il 77 e il 79, quindi immediatamente successivi appunto alla produzione appunto di Before and After Science, che è del 1977. E diciamo che questa è proprio tutta questo disco qua racchiude proprio tutta la situazione pre-ambient o pre-new age che si va poi a creare appunto dal 77 in avanti. Esatto. Ancora prima andiamo a parlare appunto del prossimo brano, che è Baby's on Fire, tratto da Here Come the Warm Jets del 1973, per farvi capire da dove arriva appunto Brian Eno. E non dimenticatevi che sostanzialmente l'illuminazione a Eno viene nel 1974, in un episodio piuttosto curioso che vi racconteremo dopo questo brano. Esatto. E che il primissimo se possiamo e vogliamo ragionare per categorie, cosa che a noi non piace, però il primissimo album ambient arriva nel settembre del 1978 ed è Ambient First, Music for Airports. Mm-hmm. Quindi godiamoci invece Baby's on Fire e poi ritorniamo subito qui sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.100 FM. Ciao. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire and all the laughing boys are pinching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescuers, to change the subject. Blow the wind, blow. Lend some assistance to the object. Photographer, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience, it's necessary for her learning. If you'll be my flotsam, be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies be reduced to. Ed eccoci ritornati qui su Bosco. Questa fine un po' inaspettata, però non ci ha colto in flagrante. Comunque, niente, abbiamo appena ascoltato Brian Eno, questa era Babies on Fire e volevamo appunto, abbiamo parlato di 1974 e appunto volevamo raccontarvi come nasce la musica ambient di Brian Eno, vero Ilona? Esatto, sì. Ricordiamo che appunto Babies on Fire è proprio precedente a quella che diciamo è l'illuminazione appunto di Brian Eno. Vai Giuliona col racconto. Comunque io volevo anche dirvi che non si schiaccia, non si pigia un tasto in regia e quindi tutta questo calore nel raccontarvi di Brian Eno era solo perché stavo cercando di pigiare bene il tasto, di struccare il botun come si dice a Milano, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, Brian Eno nel 1974, in seguito a un incidente stradale, rimase per un lungo periodo in degenza nel suo letto e nella sua casa di Maida Vale o Maida Vale, come si pronuncia lo sanno solo i cartografi. In questo periodo molti degli amici che lo circondano non lo vanno a trovare, tra cui appunto vi fu Judy Nylon, poi appunto che militò nei Snatch, che gli portò in dono un disco di composizioni per arpa del XVIII secolo. Brian Eno rimase solo con questo disco tra le mani e soprattutto rimase invalido perché appunto stava a letto e non sapeva come fare per modificare l'ascolto, cioè per alzare il volume e per sistemare il canale del giradischi che non funzionava. Da lì nasce l'illuminazione. Brian Eno viene travolto da quella che è una nuova consapevolezza di un nuovo ascolto, cioè praticamente sostanzialmente nacque un modo nuovo di ascoltare la musica che coincide con un nuovo modo di fare musica. Infatti Brian Eno poi affermerà: piuttosto che emergere come una nave sull'oceano, diventa parte di questo stesso oceano questa musica, una musica che sentiamo ma che non sentiamo, suoni che esistono per metterci in condizione di sentire il silenzio, suoni che ci rilevano dal nostro bisogno compulsivo di analizzare, incasellare, categorizzare, isolare. Scusate, ma c'è una macchinina sul PC, sullo schermo del PC, io non riesco a pulirla e quindi vi fa leggere tutte le lettere sbagliate. Al 333-180-9494 scriveteci se volete consigliare uno smacchiatore appunto per Giuliona e per il suo PC. Ed era un momento così poetico raccontare gli esordi di Eno e io l'ho rovinato come sempre, Ilona. No, ma non ti preoccupare perché ci verrà ovviamente in aiuto la musica e influenze, chi e cosa ha influenzato Brian Eno. Brian Eno ovviamente ha influenzato tutta la musica che viene dopo di lui e in particolare vedremo anche quanto potere ha avuto nella cinematografia, ma anche quanto potere ha avuto su uno dei gruppi più famosi della storia. Questi sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Esattamente, che abbiamo qui sotto perché appunto c'è un'introduzione molto importante al brano che io ho dovuto scaricare dal mio disco, quindi ha preso il brano precedente, ma ci siamo quasi per Comfortably Numb. E volevo anche dirvi che vi consiglio di ascoltare quella senza Eddie Vedder, un po' per antipatie, però vabbè, questo è un po' troppo. Oltre ai Pink Floyd, diciamo che Brian Eno ha anche influenzato tutto quello che è il filone del prog, infatti questa ne è una dimostrazione, sì. Sostanzialmente Pink Floyd, Comfortably Numb. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain. Get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. Comfortably Numb dei Pink Floyd scorre sotto di noi, anche se so che è un peccato che si spezzi sempre le canzoni, ma purtroppo il clock radiofonico è impellente e poi abbiamo il direttore che deve andare in onda, insomma, esatto. Con l'indigesto non ve lo potete perdere. Oggi puntata molto importante, mi raccomando, seguitela alle 17 sempre qui su Radio Cirafocico 103.1 FM. Assolutamente sì, Comfortably Numb, mangiandomi le parole come fanno loro tra l'altro nella canzone, esce nel 79, prima come singolo che era la B-side di AU e poi all'interno del celeberrimo album The Wall. Esatto. E proprio nel 1979 Brian Eno pubblica invece Songs for the Airport. Quindi sostanzialmente si può far è bello questo confronto, perché da un lato abbiamo l'avanguardista Brian Eno che raccoglie tutti i suoi suoni e apre nuove galassie musicali, insomma scopre nuove galassie musicali, dall'altra invece Pink Floyd che invece fanno del vecchio un nuovo stile, cioè esatto. Sostanzialmente la cifra del nuovo, e entrambi, diciamo, i movimenti sono accomunati da una tendenza verso un suono molto più effimero, così poi come sarà per John Cale, che è il prossimo artista che andremo ad ascoltare. Piccola parentesi, non so se avete visto il documentario, se vi è capitato, appunto nel 2014 hanno trasmesso appunto il documentario Pink Floyd at Pompeii, Live at Pompeii del 1972, appunto questo docufilm dei Pink Floyd. Non c'è soltanto, diciamo, la parte live, ma c'è tutta una parte pre e registrazione che fa capire comunque come in quegli anni lo studio del suono sia preponderante a livello proprio tecnico, a livello di missaggio, a livello di campionamento. Il campionamento diventa fondamentale in quegli anni. Noi pensiamo che sia una cosa degli ultimi tempi, ma in realtà il campionamento esiste da, penso, inizio Novecento. Assolutamente. E quindi solo che in quegli anni veramente inizia a diventare parte integrante della musica che si può ascoltare tutti i giorni. Comunque John Cale, ovviamente John Cale, cosa dire, oltre ad essere uno dei membri fondatori dei Velvet Underground, è anche un incredibile musicista. Ovviamente noi volevamo proporvi un piccolo brano che è Paris 1919. Piccolo brano per piccolo ascolto. Esatto, piccolo brano per piccolo ascolto, tratto appunto da Paris 1919 del 1973, anche lui un altro precursore ovviamente della musica ambient, ma diciamo che lui si inserisce ovviamente in tutto quel filone degli anni 70 di cui fanno parte anche Velvet Underground, fa parte Nico che poi ascolteremo, fa parte Patti Smith perché lui collaborò anche con lei, di tutta quella sfera dell'art rock, dell'art music che inizia appunto a svilupparsi anche grazie ovviamente alle influenze della musica ambient. Quindi direi che con molta calma ce la possiamo andare ad ascoltare. Paris 1919, John Cale, pubblicità e poi torniamo qui su Bosco. Standing there but never ever talking sense, just a visitor you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all, just casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la la la la la la la la la. You're a ghost, la la la la la la la la la. And the church shall I come to claim you with my iron drum, la la la la la la la la. Tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la la la la la la la la. Yes, you're a ghost, la la la la la la la la. I'm the bishop and I see, they say. Get to know the date and tell the time of day. As the crowds begin complaining how the Beaujolais is raining down on darkened meetings on the Champs-Élysées. You're a ghost, la la la la la la la la la. È davvero un peccato lasciare sotto di noi da Oriente a Occidente di Franco Battiato, perché ora arriviamo esattamente da quella che è l'oltreoceano e l'oltremanica fino all'Italia, perché anche l'Italia ha giocato un ruolo determinante in fatto di musica ambient. In particolare parliamo di minimalismo, che è una corrente che appunto nasce a New York e che approda qui in Italia e vede come maggiore sperimentatore, o meglio forse il più celebre, proprio Franco Battiato. E perché nominiamo sempre Franco Battiato? Ancora ce lo chiediamo, è impossibile non farlo, perché davvero l'avanguardia sostanzialmente. Esatto. Parliamo appunto di Sulle corde di Arias del 1973, long playing di 4 tracce, di cui Da Oriente a Occidente è l'ultima. E ovviamente siamo in quella fase di Franco Battiato, ma penso che non sia mai finita in realtà, fase della sperimentazione completamente pura. L'unica cosa è che appunto, cioè, perché nominiamo Franco? Perché Frango? Perché effettivamente è uno di quei personaggi qua in Italia che ha avuto il coraggio di portare nella musica, di trasformare la musica pop anche, perché lui ha trasformato la musica pop, ha completamente dato un genere, è stato il più grande esponente dell'ambient in Italia, il più grande della new wave in Italia, cioè, nel senso, ti amo. Esatto, aspettavamo proprio questa dichiarazione d'amore. E se anche voi volete fare una dichiarazione d'amore a Franco Battiato, scriveteci per SMS su WhatsApp al 333-180-9494. Ma ritorniamo a parlare del minimalismo, che è una corrente che ha attecchito in Italia grazie a un gallerista a Roma, che ospita proprio nella sua galleria artisti come Terry Riley, Philip Glass, John LaBarbera, Charlemagne, Palestine e Steve appunto Reich, che abbiamo appena nominato. Passiamo da Battiato poi a un altro artista in realtà che vi avevamo già fatto ascoltare esattamente un anno fa, quando parlammo di musica e parole, e lui era inserito all'interno di quello che era il grande contenitore musica, perché appunto uno dei compositori profondi nella mia personalissima scala di valori che io abbia mai ascoltato. E soprattutto poco conosciuto, pochissimo conosciuto, riscoperto proprio ultimamente. Assolutamente sì. Parliamo di Luciano Cilio e vi faremo ascoltare Primo quadro della conoscenza, che è in realtà tratto da Dialoghi del presente, un disco che uscì nel 1977. È interessante, tra l'altro, per fare un'analisi sincronica. Sostanzialmente Ino, che raccoglie, diciamo, l'eredità di Satie, si colloca nel 79. Abbiamo tutta la sperimentazione prog, che invece appunto si colloca negli stessi anni, portata avanti dai Pink Floyd, e poi abbiamo il minimalismo italiano, che accipicchia ancora negli stessi anni. Mm-hmm. C'è stata una vera e propria rivoluzione nel modo di ascoltare musica e di conseguenza del fare musica. Dialoghi del presente è un disco che a me fa paura, nel senso, mi ci avvicino con sospetto animo, perché è un disco forte, è un disco poderoso e non è un disco che si ascolta sempre, non è adatto a momenti di non spleen. E se proprio volete uno spoiler, Luciano Cilio è morto suicida, quindi insomma, Luciano Cilio era un musicista architetto napoletano che aveva lavorato con vari nomi del migliore underground della città, per esempio Saint Just o il primo Alan Sorrenti, che all'epoca Alan Sorrenti, cioè pim pum pam pam proprio, e sostanzialmente si avvicina poi a un mondo sonoro personalissimo, lontano da ogni tradizione, in cui al piano, protagonista del disco, aggiunge qualche voce, qualche percussione, ma soprattutto bellezza, languore, malinconia. Così leggo da un bellissimo articolo che tratta proprio di questa corrente, che è il minimalismo italiano, e ora, proprio per preservare nella sua interezza il Primo quadro della conoscenza, ve la facciamo ascoltare e poi ritorniamo qui su Bosco. Thank you. Vorremmo ancora lasciarvi in compagnia di Luciano Cilio con Primo quadro della conoscenza, ma purtroppo i tempi radiofonici ce lo impediscono. Abbiamo appunto appena ascoltato questo meraviglioso compositore partenopeo e abbiamo concluso quella che era una piccola parentesi dedicata tutta al minimalismo italiano. Ora però siamo giunti alla nostra contemporaneità e sinceramente appunto in questo salto temporale piuttosto ingente, possiamo dire, la contemporaneità della musica ambient io l'assaggio dal cinema, ma ancora prima degli ascolti che mi accompagnano in questi giorni. Infatti vogliamo parlarvi del prossimo gruppo che ha cambiato un sacco di nomi e ha un acronimo che è ASMZ, che significa The Silver Matt Zion Memorial Orchestra, che è appunto un ensemble, un collettivo canadese che si è formato nel 1999, che si identifica in un ideale post-rock e post-punk, ma che in realtà ci regala meravigliosa musica ambient. Come ti senti, Lara, dopo questo Cilio che ci culla? Ma io mi sento iper rilassata, cioè sta accompagnando questo pomeriggio e mi sta tranquillizzando dal logorio della vita moderna e soprattutto da cose che magari mi possono anche far arrabbiare. Meno male che esiste Luciano Cilio. Esattamente sì. Comunque, ritornando invece ai The Silver Matt Zion Memorial Orchestra, non so se lo sai, ma loro sono un side project di una band che verrà fra poco qui a suonare al Covo, proprio a fine aprile, che sono i Godspeed You Black Emperor, che è una delle band, secondo me, più impressive, non so come dirlo in italiano, da sentire dal vivo. Infatti quando mi hanno detto che avrebbero suonato al Covo mi sono chiesta, ma con tutto quel popò di roba, quel popò di orchestra, dove come sta? Saranno? Infatti non suonano al Covo, ma l'evento è sponsorizzato dal Covo, è ospitato diciamo come organizzazione dal Covo. Credo che suonino al Locomotive o all'Estragon, non mi ricordo più. Comunque imperdibili, se volete un assaggio, li andremo anche ad ascoltare nella prossima mezz'ora, ma se volete un assaggio io direi che siamo pronti a darvelo. Il brano ha un nome impronunciabile, infatti l'aria tocca a te. Sono pronta. Allora, 13th Angel Standing Guard Around the Side of Your Bed. Cioè, vabbè, Magic English. A dopo. Ed eccoci qui rientrati su Bosco, anzi in Bosco, a Bosco, nel Bosco. Sono martedì 10 aprile, sono le 16:18. Ci stiamo inoltrando in quella che poi è l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione. Prima però vogliamo farvi ascoltare un'artista sicuramente incompresa, sicuramente sottovalutata. Si tratta di Nico, famosa e celebre nel mondo della musica perché ha partecipato al Banana Album celeberrimo di The Velvet Underground. In realtà una cantante, ha una produzione solista che è a dir poco meravigliosa. Una cantante incompresa che io ho avuto modo di conoscere profondamente grazie a un film monografico uscito nelle sale proprio pochi mesi fa, che io vi consiglio, ed è Nico 1988, quindi cerca, magari non scaricatelo illegalmente, ma compratevi il DVD o insomma raggiungetelo in qualsiasi modo legale per capire appunto meglio la personalità di Nico. Nico era solita girare e portarsi appresso ovunque ella andasse un piccolo registratorino con un microfono che lei avvicinava ai suoni che più la colpivano. E quando tu parli di campionare, Ilona, parli anche di quello che ha fatto Nico e della base di uno dei suoi più grandi dischi, che è Desert Shore, che è datato 1970. Tu conoscevi la produzione solista di Nico? Assolutamente no, cioè nel senso non ho mai avuto... Non l'ho mai scoperta, ecco, devo essere proprio sincera. E però so ovviamente che oltre ad essere una grande protagonista appunto degli anni 70, è anche diciamo una di quelle personalità femminili che ha fatto la storia, nel senso anche a livello proprio di tipologia di canto, capito? Tantissime artiste successivamente si sono ispirate ovviamente a Nico. E però no, non avevo la minima idea che fosse, così impegnata appunto nel campionare, nel registrare i vari suoni che la circondano. E noi registriamo, come sempre, la grande rubrica dell'aereo di Radio Città Fujiko. Sopra di noi sta passando un aereo e in realtà, non lo so, mi mancava, mi sono chiesta infatti prima, ma l'aereo dov'è finito? Comunque tu non conoscevi, secondo me, la produzione da solista di Nico, più che altro perché è un artista realmente... sottovalutata. Non ha sempre cercato di chiamarsi fuori dall'industria musicale, un po' per attitudine anche essa musicale, un po' per un disagio esistenziale abbastanza poderoso. Tuttavia noi appunto vi faremo ascoltare The Falconeer, che è tratto da Desert Shore, un album del 1970, ma non dimenticatevi di ascoltare tutta la sua produzione da Marble Index fino a, mi pare, Chelsea Girl, che mi pare fosse, il primissimo album. Ora vi lasciamo ascoltare The Falconeer, una piccola pausa pubblicitaria e poi andiamo subitissimo all'interno dell'ultima mezz'ora in questo cammino oscuro che è Bosco, e concluderemo insieme questa puntata tutta dedicata all'ambient. Somerset at dawn. His side is singing silver waves, and it's dancing purple lace that compose ahead of timeless time. This and at dawn, unlocking flooded silver cages, and with a silver dinner rise, oh, the lovely faces. And the lovely silver traces erase my empty pages. Pezzi di questa puntata di Bosco vorremmo ascoltarli fino alla fine, ma purtroppo non si può. Questo era Storm, un estratto di Storm in realtà, perché è un pezzo che dura una mezz'ora, quasi fosse una sinfonia. Loro li dividono proprio in movimenti e loro sono i Godspeed You Black Emperor, che appunto dei quali abbiamo parlato precedentemente, che vi aspettano all'Estragon in un'unica data italiana il 26 aprile. Quindi affrettatevi a correre le prevendite se siete di Bologna e provincia, perché è davvero un concerto che ne vale la pena, cara Elona. E allora faremo in modo di arrivarci comunque a questo concerto. Direi proprio di sì, anche perché io li ascolto per la prima volta e devo essere molto sincera, mi piacciono veramente tanto. Sono le 16:35, questa è l'ultima mezz'ora di Bosco, sta per terminare qui questa puntata interamente dedicata all'ambient, al minimal. E andiamo verso il cinema, andiamo verso le produzioni che ovviamente hanno legato l'ambient al mondo delle serie TV e del cinema. In particolare stiamo andando a parlare di quello che può essere secondo me il duo più importante di questo connubio, che è appunto quello tra Lynch e Angelo Badalamenti. Ovviamente Badalamenti ha composto musiche non soltanto per Twin Peaks, ma anche per tantissimi altri appunto lungometraggi del regista. Lynch stesso è un compositore, infatti dopo ne avremo un'occasione appunto di ascoltare qualcosa di suo. Nel caso di Badalamenti, per esempio, a me viene in mente, vabbè, appunto citatissimo Twin Peaks, Mulholland Drive, anche un altro film interamente musicato da Badalamenti, e adesso invece stiamo per andarci ad ascoltare Dark Space Law. Esattamente, e Dark Space Law vi introdurrà in quest'ultima mezz'ora di Bosco proprio insieme a Godspeed You Black Emperor, ma soprattutto vi farà riflettere al legame inscindibile tra musica, ambient e cinema, proprio perché disegnando dei paesaggi sonori fa da accompagnamento a quelle che sono scene. Cioè, secondo me la musica ambient ha quel nel cinema quel ruolo specifico di riempimento, non so come dire, di riempimento e di accensione di un certo tipo di sentimento di empatia, che rende uno spettatore non più passivo ma attivo. Questo è come io la vedo e come l'ho sempre vista. Comunque vi lasciamo, come ha detto Ilaria, in maniera direi raffinatissima, ad Angelo Badalamenti con Dark Space Low, che tra l'altro, come ben sapete, è tratto da Twin Peaks. Ilaria, io subito ti stoppo, perché se inizi a parlare tu di Twin Peaks e il direttore viene qui e ci licenza per davvero, perché sennò si finisce nel 2013. Ed è finita così, senza nemmeno darci un preavviso, ma la base ci verrà in aiuto. Questa era Dark Space Low di Angelo Badalamenti, braccio destro di David Lynch, in quanto musica e scene che vediamo allo schermo. Ilaria, tra l'altro, stavi leggendo una cosa molto interessante, no? Riguardo a questo brano o a quello prossimo? No, più che altro no, vabbè, per il prossimo semplicemente c'è, ovviamente il prossimo è David Lynch con Lick Lee. La settimana scorsa abbiamo fatto, due settimane fa, poi l'abbiamo riproposta settimana scorsa in replica, una puntata interamente dedicata alle musiche, diciamo, d'oltre Europa, ma più che altro oltre Europa occidentale, quelle musiche che non fanno parte del canone occidentale dei 3 minuti e 50. Esatto. E abbiamo appunto affrontato, diciamo, diversi continenti musicali. Abbiamo affrontato anche la zona nordica, appunto, dell'Europa, che ha un ambiente musicale a sé stante, e Lick Lee fa parte appunto di quel mondo fatto di elettronica nordico, che entra perfettamente in connubio con quella che è la poetica appunto di Lynch, sia a livello musicale che cinematografico, che appunto in generale, diciamo, filosofico in un certo senso. Niente, praticamente quello, ovviamente lei ha partecipato, cioè lì non riesco a dirlo, ha partecipato appunto con David Lynch e hanno composto I'm Waiting Here, che è tratto appunto ovviamente da Twin Peaks, perché Twin Peaks è il trionfo appunto di questo incontro, sì, di Lynch con l'ambient, ma in generale tutti i film più o meno, proprio perché hanno una, diciamo, sono particolarmente tensivi, particolarmente misteri, si sposano molto a quella che è la musica ambient, perché è una musica riempitiva. E soprattutto c'è da dire che la musica ambient contribuisce a dare l'esatto tono alla, alla scena che si va a proporre, perché si inserisce proprio come se fosse un elemento della scenografia. E quindi... Sì, sta dicendo? E quindi niente, semplicemente è molto interessante il lavoro che appunto fa. Tra l'altro, se non erro, se non vorrei dire una cretinata, però Brian Eno ha collaborato con David Lynch, se non sbaglio, in un nel film Dune. Però controlleremo. Detto questo, mandiamo il brano che è appunto I'm Waiting Here di Lynch con Lick Lee. I am not ever re-falling. dolce voce di Licky Licci, Cool, insieme a David Lynch in I'm Waiting Here. E questo era il penultimo pezzo che abbiamo ascoltato oggi insieme qui a Bosco. Esatto, errata corrige, ma in realtà non tanto, nel senso che è vero che appunto Brian Eno si occupò della colonna sonora del film Dune, appunto, di David Lynch, ma questa colonna sonora di cui che lui scrisse non venne mai pubblicata. Perché sai a chi venne affidata la scrittura della colonna sonora? No, assolutamente. Ai Toto. No. L'intera colonna sonora è interamente basata su brani originali dei Toto. Beh, che dire, grande scelta David Lynch, e mi sa che a sto giro, boh, se avete visto il film scriveteci per questi ultimi 5 minuti al 333 180 94 94, cosa pensate della collaborazione di Lynch con i Toto Africa. E detto questo, noi ci avviciniamo alla fine. Comunque volevo anche dire che in realtà Africa dei Toto ha l'intro, una delle intro più belle secondo me della storia del rock. Stai scherzando? È una delle intro più campionate anche della musica hip hop. Sacre Scuole, che negli anni 90 erano appunto Jake La Furia, mi pare, Gue Pequeño e Darjean D'Amico, che adesso sono dei buzzurri. Ma se volete delle informazioni, c'è una notissima rivista che si chiama Trap, potete andare, perché in prima pagina c'è appunto Gue Pequeño e la sua vita, quindi potete tranquillamente cercarvi qualcosa a riguardo. Esiste ma davvero il cioè della trap. Vabbè, ma io volevo essere serio là, ma non lo sono. Comunque, direttura di arrivo, sono le 16:48 e noi stiamo per lanciarvi il brano in conclusione di questa bellissima e favolosissima puntata di Bosco, per poi lasciare spazio all'indigesto del nostro direttore, che se facciamo ritardo insomma ci mette meno sul registro, quindi concentrazione. L'ultimo brano è di Philip Glass, che è probabilmente il più popolare tra i compositori minimalisti e si iscrive all'interno di quello che è la corrente minimalista ma europea. Ha praticamente scritto e composto musiche per il teatro, per orchestra, ma soprattutto musiche per la danza, per le coreografie di danza e balletto contemporaneo. Ha collaborato con chiunque, non lo so, ovviamente Brian Eno e ovviamente David Bowie, diciamo che probabilmente sono queste le due effigie di quello che è l'avanguardia musicale sicuramente, ed è molto famoso anche per ovviamente questi ultimi lavori, tra cui Glassworks, che è un disco meraviglioso. Volevamo concludere così per ritornare da dove siamo partiti sostanzialmente. E sai, ti dirò una cosa, per ritornare ancora da dove siamo partiti, da Satie. Satie fu uno dei primi a comporre musica d'ambiente insieme a Cocteau e Picasso, tra l'altro, perché collaborarono tutti e tre insieme per creare questo balletto interamente dedicato al, diciamo, al filone cubista. Quindi un po' si ritorna, diciamo, il cerchio si chiude, secondo me. Esatto, una giostra che va a questa vita che, per indovinare la citazione, scriveteci al 333 180 94 94, in premio, in palio, il canovaccio di questa puntata. Esatto. Che è piuttosto scritto, cioè che davvero la stella di Rosetta mi fa un baffo. Comunque siamo appunto arrivati in conclusione. Io ringrazio personalmente, sentitamente, Benedetta e Tommaso, che mi hanno aiutato non solo a preparare la puntata, ma mi hanno fatto scoprire musica nuova, e bisogna tenersi strette le persone che ti fanno scoprire musica nuova. Vero. Ringrazio te, Ilona, che sei qui ed è meraviglioso, cioè, ma grazie è una cosa, a te Giuliana, ma è scherzi. Una cosa stranissima. Infatti, se sentite un audio pessimo quando ascoltate Bosco, perché ovviamente Ilona non è con me, perché con Ilona l'audio è perfetto. È perfetto. Ringrazio voi ascoltatrici e cari ascoltatori per essere stati con noi. Sono le 16:50, in realtà abbiamo ampiamente spazio per divagare e dilungarci, quindi insomma iniziamo a sparare le care vecchie glorie del passato, così come facevamo l'anno scorso. Ma sì, ma che cosa c'è da dire? No, beh, giustamente prima stavamo dicendo che tra le tante cose che badala, perché l'ambient non è entrata soltanto nel cinema. Prima stavamo cazzeggiando fuori onda riguardo ad Angelo Badalamenti e abbiamo scoperto che venne commissionato dalla Atari, storica casa di produzione di videogiochi, per appunto comporre le musiche per un gioco del 1980, se non erro, mi correggono, vabbè, lo cercheremo, non c'è nessun problema, però era Fahrenheit, quindi anche nei videogiochi subentra addirittura badalamenti, pensa a te, cioè, l'avresti mai detto? Mai. Comunque vogliamo anche dire che in realtà hai tirato un bello spoiler, perché una musica su una puntata su musica di quel bellissimo mondo che è quello del gaming vi sarà sicuramente offerta proprio qui su Radio Città Fujiko e soprattutto proprio a Bosco. Tuttavia noi vi ricordiamo che se siete affezionati ci trovate il giovedì dalle 19:30 su una web radio che si chiama Bad Web Radio, e stasera, se volete conoscere di più il mondo delle web radio, vi aspettiamo alla confraternita dell'Uva in via Cartolerie 20/B, perché appunto presenteremo il nostro progetto in compagnia di un bicchiere di vino e di un buon libro. Invece, se vi siete persi questa puntata di Bosco, e se vi voi che siete all'ascolto non ve la siete di certo persa, ma se volete riascoltarla, volete recuperare i brani che abbiamo passato oggi, perché non solo pubblichiamo il podcast ma pubblichiamo anche la playlist, cioè la potete trovare ovviamente sulla nostra pagina Facebook, ovviamente mettete mi piace alla pagina di Bosco RCF 103.1, ogni weekend, comunque entro il lunedì, pubblichiamo appunto il podcast della puntata appena trasmessa con la playlist appunto della puntata, così potete recuperare insomma quello che vi siete persi. Esattamente. Allora noi siamo pronti adesso, veramente pronti, di uscire dal nostro bosco e lanciarvi Philip Glass Morning Passages e aspettarvi a martedì prossimo dalle 15 alle 17 sempre su Radio Città Fujiko. Ciao ciao.